24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. È inutile stare a lamentarsi della Germania se noi non copiamo il modello, per esempio, tedesco sul rapporto tra scuola e lavoro. Io ci discuto con la Merkel, come è noto, ma posso dire che il modello tedesco di rapporto tra scuola e lavoro è un modello che funziona e che è una cosa da copiare. Puoi anche litigare, discutere quanto ti pare, ma quando c'è una cosa che funziona meglio, io voglio copiare e cercare di farla ancora meglio degli altri. Ivan Lobello, vicepresidente di Confindustria, con la, con la delega all'educazione. Ecco, d'accordo con Renzi, buongiorno intanto. Sì, buongiorno a voi. Sì, sono totalmente d'accordo con Renzi. Perché? È perché è un tema che noi in Confindustria sviluppiamo da anni, conosciamo benissimo il sistema duale tedesco, siamo stati lì, abbiamo una collaborazione forte anche con la Confindustria tedesca. È un sistema che ha avuto un effetto enorme, positivo sull'economia tedesca. Sull'economia tedesca e sul tasso di disoccupazione. La disoccupazione giovanile in Germania oggi è intorno al 7%. Ecco, ma nella buona dottor Lobello, però nella buona scuola del ministro Giannini, appena presentata, sono previste 200 ore per il triennio, l'alternanza scuola-lavoro. Sì. Beh, come inizio, insomma, non è che sia un granché. No, ma io credo che lo strumento sia uno strumento flessibile. Ci sono alcuni elementi fondamentali. Beh, innanzitutto l'obbligatorietà negli studi tecnici dell'alternanza scuola-lavoro. D'accordo. Che è il modello tedesco, questo sì. È un elemento fondamentale. Però in Germania sono al 22% nell'alternanza, noi siamo al 3,7%. Ma da noi, me lo lasci dire, da noi l'alternanza, diciamo così, è un club di pochi. Ecco, no? Siamo all'inizio. Siamo solo all'inizio, ci sono sicuramente degli elementi fondamentali, alcune grandi aziende hanno già messo in moto strumenti di alternanza scuola-lavoro, però ecco, qui è un problema di capacità competitiva del nostro paese e di un futuro dei ragazzi. 46% la nostra disoccupazione giovanile, 7% quella tedesca, quindi ha ragione Renzi, dobbiamo guardare ai tedeschi, tenendo conto ovviamente anche delle nostre specificità italiane. Ecco, ma tutto... dottor Lobello, ma per formare la generazione Erasmus, diciamo così, che è quella che guiderà l'Europa, il nostro sistema scolastico mi dice due cose sulle quali veramente deve cambiare completamente? Cioè, dove non è all'altezza assolutamente? Ma non è che non è all'altezza, è un sistema che, come tanti sistemi europei, ha vissuto di rendita quando vi era un monopolio nazionale dell'educazione, non si era aperta l'Europa. E allora il ritardo oggi... più grave dov'è? Il ritardo più grave è di non essere in grado oggi di prendere atto che il mondo è cambiato, che ci sono nuove competenze, uno scenario completamente diverso, e questo è il tema centrale, è la spinta che cerchiamo di dare. Però ecco, nella buona scuola queste cose ci sono perché, insomma, vanno riguardano... fatte. Sì, vanno fatte e vanno messe in tempo. Guardi, alternanza scuola-lavoro è il primo tema, l'ha detto il Presidente Renzi, sono totalmente d'accordo con lui. Lingue fin da subito? Lingue da subito, lingue informatica da subito, nella scuola primaria e nella scuola elementare e poi nel percorso successivo. Ormai l'informatica è un tema centrale, peraltro il coding, come si dice tecnicamente, è una lingua, non è solo una tecnologia ed è un elemento fondamentale. Il mondo si muove col coding, non si muove con altro. La lingua è fondamentale, un nostro ragazzo, se non sa l'inglese, può avere le non c'è migliori dubbio. Competenze possibili non c'è e, rimane, dubbio. E rimane a casa purtroppo. Dottor Lobello, c'è Mario, sì. Mario Secchi che vuol fargli una domanda. Ma, sì, volentieri. Buongiorno. Allora, buongiorno. La domanda è questa. Noi in Italia abbiamo un sistema di professori che fanno i professori per fabbricare altri professori. Quando si interromperà questo circuito? Ma allora, torniamo sempre alla buona scuola che, ripeto, noi abbiamo condiviso. Beh, innanzitutto ci sono elementi dirompenti. Fu Luigi Berlinguer a provarci alla fine degli anni 90, ma non ci riuscì. Oggi penso che Renzi ce la faccia. Beh, innanzitutto merito, quindi nuove regole per premiare gli insegnanti. Questo è un tema che è stato un tabù della scuola, invece oggi diventa l'elemento di competitivo. Autonomia e valutazione. In tutto il mondo si valutano gli insegnanti, e si dà autonomia al dirigente scolastico. Questo è un tema E poi l'innovazione, noi non possiamo più pensare di poter i nostri ragazzi non si, sì, si sente no, male? No, mi sentite? Sì, sì male. C'è Pietrangio Buttafuoco, vuol fare una domanda. Buongiorno, sì. Innovazione con quella I, mi ricorda le tre sciagurate I di Berlusconi, internet, imprese, inglese. Ora, sinceramente, mi sembra una fotocopia questa idea di Renzi rispetto a quello, perché dovrebbe riuscire? No, è molto diversa da quella prospettiva, anche perché da allora ad oggi il mondo è cambiato. L'inglese è una necessità perché le aziende che si internazionalizzano parlano... D'accordo, questo è sicuro, non c'è dubbio. Internet è la nostra nuova dimensione antropologica, non possiamo pensare di tornare indietro. Quindi quelle tre io oggi con minore retorica forse sono un elemento fondamentale che va preso in considerazione. 800 24 00 24, il numero verde, sms 349 238 6666. Ecco, dottor Lobello, per chiudere, il comitato alternanza scuola lavoro, che è attivo per legge dal 2005, e che cosa fa esattamente? L'alternanza scuola lavoro dal 2005 fino a qualche tempo fa non c'era. Ah, quindi era sulla carta. Non me ne sono occupato, perché l'alternanza scuola lavoro era estremamente residuale nel nostro panorama. Oggi sta diventando una cosa seria che comincia ad entrare nella testa degli insegnanti, nel sistema politico, devo dire che è un elemento fondamentale. Senta però, Lobello, mi scrivono gli sms tanti, uno per tutti. Minoli, all'elementare si fa un'ora di inglese e due di religione. Insomma, bisogna cominciare però, Certo, ma guardi, le posso dire una cosa, il vero grande problema del nostro sistema è la didattica. Noi abbiamo una didattica del Novecento e quindi continuiamo a studiare delle cose che c'erano nel Novecento e che oggi sono assolutamente obsolete. Quindi ci vuole una radicale revisione della didattica. Tra le due ore di religione e l'inglese probabilmente si può continuare ad avere un'ora di religione, ma bisogna avere 2, 3, 4, 5 ore di inglese, perché quello è il futuro del paese. Grazie dottor. No, grazie, scusa Pietrangelo. No, mi è venuta in mente una massima fondamentale di Franco Battiato: il giorno della fine non ti salverà l'inglese. Ma a proposito di fine, una cosa maliziosa: quando è che staccherete la spina a crocetta? Questo è un suo leitmotiv. No, ma perché loro sono fondamentali, Confindustria è fondamentale lì. Allora, si stacca sta spina? Facciamo un'altra trasmissione su questo. Va bene, faremo un'altra trasmissione. Lobello si astiene. Grazie. Velocità. Sono pure velocità. Un vincitore, 42 perdenti. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una setta. Signori, accendete i motori! Ai posti. Via! Lo senti? Questa è la musica. Piano, brucerai quelle dannate gomme. La macchina è perfetta. Sei il dodicesimo. Ancora 30 giri. Adesso sei quinto e stai guadagnando mezzo secondo ogni giro. Con la bandiera bianca, ultimo giro. Tu mantieni il piede sull'acceleratore e li superi passando all'esterno. Pontremoli, amministratore delegato della Dallara Automobili, un'azienda costruttrice di auto da competizione. E la Dallara ha aperto un centro di ingegneria a Indianapolis dove produce e assembla le IndyCar del futuro. Ecco, un'azienda di alta tecnologia come la Dallara, come è arrivata a inserirsi nel progetto di alternanza scuola-lavoro? Siamo partiti essenzialmente da una cosa molto semplice. In una competizione globale, noi siamo in una competizione globale, ci siamo accorti che per essere un'azienda competitiva non è più sufficiente essere competitivi come singola azienda, ma deve essere competitivo il territorio nel quale ti trovi. Ed è così che abbiamo radunato attorno a questa idea, altre aziende del territorio, e abbiamo cominciato a creare questo comitato tecnico-scientifico che ragiona un po' sulle esigenze delle imprese del territorio. Ecco, lei è abituato appunto a misurare immediatamente il risultato, perché lunedì o ha vinto o ha perso. Ci vuole pazienza invece per investire nella formazione dei giovani? Ma più che pazienza, secondo me bisogna proprio lavorare sulle loro motivazioni. le cose che abbiamo visto sono avvenute l'anno dopo che l'abbiamo fatto partire. Quindi rapidamente? Molto rapidamente, e persone che erano disoccupate l'anno prima, l'anno successivo avevano un lavoro nello stesso territorio. Quindi io dico, le persone sono le stesse, il territorio è lo stesso, è cambiata solo la formazione. E quindi conviene per questo proprio? È una questione di convenienza, ed è conveniente per noi e per le imprese che lavorano per noi. Ecco, lei, le ho sentito dire che Zanardi, il campione di automobilismo che ha perso le gambe in un incidente, è in qualche modo un suo modello di vita, un grande educatore. Perché? Ma Zanardi, tra l'altro, è un amico, lavora con noi, gli abbiamo costruito l'end bike con cui ha vinto 2 Olimpiadi e 2 medaglie d'oro ai campionati del mondo. E proprio l'altro ieri ha partecipato all'Ironman alle Hawaii, sì, ho visto. Il triathlon, ed è arrivato prima di tanta gente con le gambe. E lui mi ha raccontato proprio questa cosa, che la racchiudo in un secondo, che è quella che quando lui si è trovato in un lettino senza le gambe, invece di pensare, come facciamo un po' tutti, che cosa non posso più fare adesso che non ho le gambe, ha pensato che cosa posso fare adesso che non ho le gambe. Una lezione di vita fantastica. Ecco, nel vostro rapporto con la scuola, questo rapporto ha cambiato di più voi o di più la scuola? Ma io direi che ha cambiato tutte e due, nel senso che io come imprenditore, noi come imprenditori, certo, diamo sempre la colpa alla scuola, e abbiamo invertito le cose, abbiamo cominciato a dire, se la scuola non sa di che cosa abbiamo bisogno, il problema è nostro. Certo, se non vi conosce, sì. Esatto. Abbiamo cominciato ad aprire l'azienda a noi, agli studenti delle scuole medie, ai genitori delle scuole medie, ai professori, che si sono resi conto che le imprese di oggi sono completamente diverse da quello che loro avevano in testa. E dall'altra parte questo ha contribuito anche a creare opportunità alla scuola stessa. Per esempio l'Istituto Tecnico di Fidenza, che lavora con noi, ha raddoppiato le prime quest'anno. Cioè i ragazzi hanno capito che lì c'è una formazione che dà sbocco professionale. Che dà sbocco professionale, ma una cosa che con un pizzico d'orgoglio gli abbiamo ridato una motivazione di cercare le loro passioni. Quindi certo, ciascuno trova quello che gli piace fare. E come li scegliete i ragazzi? Attraverso dei test, poi vengono fatti dei colloqui, e i colloqui non sono per verificare la preparazione, ma sono per verificare la motivazione. Questa secondo me è la chiave di volta di tutta la cosa. E ne avete assunti molti? Noi abbiamo cominciato 5 anni fa con, sì, corsi di disegnatori CAD, siamo partiti con 15, e di quei 15 ne abbiamo selezionati 13 che si sono diplomati. Quei 13 un mese dopo avevano il lavoro, ma non da noi, ma sul territorio. E questo per 5 anni. 13 su 15, quindi il 90%. Esatto. L'ultimo corso che abbiamo finito proprio qualche mese fa, abbiamo dovuto fare l'asta con le aziende perché c'erano molte più richieste rispetto ai ragazzi. Ah, perché la qualità della formazione è diventata patrimonio del territorio. Esatto, esatto. E questo è anche un altro bel concetto, cioè il fatto che la reputazione va costruita col passaparola, e quindi i ragazzi entusiasti, le aziende che hanno assunto quei ragazzi hanno visto la qualità, e a questo punto si è creata come una corsa. Ecco, ma che tipo di contratti hanno? Allora, noi questi corsi vengono fatti essenzialmente con proprio un'alternanza scuola e lavoro, sono corsi di dalle 500 alle 800 ore con 200-300 ore di stage presso le aziende, poi vengono assunti con contratti a tempo determinato inizialmente, e che poi vengono trasformati a tempo indeterminato. Indeterminato, anche. Ecco, dottor Pontemoli, ma nel mercato di lavoro di oggi la laurea ha ancora un valore oppure vale di più una formazione professionale tipo tecnico? Ma diciamo che sono importanti tutte e due. La cosa che secondo me dobbiamo capitalizzare, in particolare in Italia, io sono stato per anni presidente di IBM, quindi ho visto anche il mondo un po' più allargato. Noi in italiani abbiamo una capacità che forse è unica, che è quella di coniugare il sapere con il saper fare. Perché io ho visto proprio anche come tipo di formazione, il sistema anglosassone, costruisci quelli che sanno e poi costruisci quelli che fanno. Noi abbiamo le persone che proprio per cultura coniugano un po' tutte e due le cose. Quindi l'universitario, diciamo, ha un 70% di sapere è un 30% di saper fare, il diplomato ha un 70% di saper fare e un 30% di sapere. Dottor Prontemoli, un'ultima cosa, lei ha 5 figlie, ha applicato anche a loro nella formazione il sistema dell'alternanza scuola-lavoro? Ah certo, ah, sì. Io racconto sempre, no, in effetti tra l'altro facendogli fare anche lavori dai più umili a quelli più diciamo motivanti. Per esempio li ho messi anche l'anno scorso, 2 figlie erano a raccogliere pomodori perché devono capire che la terra, certo, è bassa. Ma è vero che ha una sua figlia, la più grande, la più giovane sindaco d'Italia? Sì, è stata eletta proprio 4 mesi fa, a fine maggio, ha 23 anni, ah, e fa ingegneria meccanica e adesso si trova a guidare il nostro paesino in questi momenti di difficoltà, ma devo dire che è un altro bel messaggio che quando metti un ragazzo così giovane a fare il sindaco ha coagulato intorno a sé una serie di giovani che lavorano per il proprio territorio, per il proprio futuro, e questa secondo me è una bella lezione che anche purtroppo i fatti di oggi di Genova e anche qui di Parma ci stanno aiutando. Noi dobbiamo dare più responsabilità ai ragazzi giovani per tirare fuori il loro meglio. Esatto. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 SMS. Pubblicità. Ah no, non c'è la pubblicità, chiedo scusa. Abbiamo un'altra cosa ancora. A Roma, nel quartiere dell'Eur, Marina Milone ha incontrato un gruppo di giovani che ha fatto delle start-up la propria religione. A Roma c'è un posto forse strano che si chiama Pi, come Pi greco, Campus. Si trova nel polmone verde dell'Euro e ci lavorano circa 85 persone. Il più grande ha 38 anni. I fondatori Gianluca Granero e Marco Trombetti lo chiamano distretto di start-up. Qui convivono aziende in fasi diverse che condividono quindi l'esperienza tra la più grande che passa qualche suggerimento alla più piccola e la più piccola che è più innovativa, che porta dentro quell'innovazione che la più grande ha paura di applicare sul mercato. Quindi sono una struttura leggermente diversa e per quello preferiamo chiamarci distretto. La startup è un'idea innovativa che dovrebbe produrre profitto sul mercato mondiale, distretto perché qui all'Eur nel giro di 500 metri ce ne sono circa 10. Ad esempio c'è Wanderio, che nasce da un bisogno semplice: come raggiungere in minor tempo possibile un qualsiasi posto nel mondo ad un costo accessibile per i giovani. A parlarcene infatti è Giorgio Pagliaro, sviluppatore di 26 anni. L'idea è nata perché uno dei fondatori aveva la ragazza ad Amsterdam e si accorse che non sempre conveniva andare ad Amsterdam passando per l'aeroporto di Amsterdam, ma alle volte conveniva ad andare a Eindhoven perché la tratta è low cost, costava meno e il trenino da Eindhoven a Amsterdam non durava troppo, e da questo iniziamo a pensare a un sito che ti consentisse di appunto scegliere l'itinerario migliore confrontando tutti i mezzi di trasporto. Quanti clienti avete adesso? E Wanderio ormai già a 70.000 persone hanno pianificato il loro viaggio su Wanderio da quando siamo diventati online, e da quando abbiamo la prenotazione a inizio quest'estate ogni mese stiamo raddoppiando il numero di viaggi che un utente ha proprio pianificato e prenotato su di noi. Poi c'è Luca Garulli, che ha 37 anni e con la sua azienda di 7 persone sviluppa un software innovativo per immagazzinare dati. Questo è il posto migliore dove sviluppare una startup. Come li hai conosciuti? Tipo 8 mesi fa ho visto un sito e mi hanno girato un sito su Facebook chiamato PI Campus, un mio amico. Ho visto il video, non so se tu l'hai visto, ok. Era perfettamente quello che cercavo, una realtà in Italia che riprendesse un po' i concetti della Silicon Valley. Un posto che si richiama alla Silicon Valley, ma torniamo ai fondatori allora. Gianluca e Marco si conoscono da quando le rispettive mamme li aspettano nella pancia. Laurea in fisica e ingegneria e sangue da imprenditori. Nel 2007 cercano un posto dove lavorare bene. Banalmente, stavamo lanciando questa nuova cosa insieme. Io avevo già il business di Translated e ovviamente lanciando un nuovo business insieme avevamo il problema di avere le sedi lontane. Abbiamo detto: senti, mettiamo insieme i team. Abbiamo messo insieme i team e quello che è successo praticamente, che noi pensavamo potesse essere su una cosa di disturbo, un elemento di disturbo, invece è diventato un valore aggiunto. Cioè le persone facevano challenge tra di loro, chi trovava qualcosa di buono passava l'informazione all'altro e chi sbagliava su una cosa condivideva quell'esperienza con l'altro. Alla fine i due team si sono arricchiti e abbiamo cercato di far crescere questo modello. Quindi abbiamo investito in una società che si chiama Glamour, che l'abbiamo portata qui e con 22 persone, qui 22 persone, e poi l'abbiamo venduta a Seat Pagine Gialle, un clone di Groupon, una sorta di Groupon europeo. Quindi questa altra esperienza ha arricchito ulteriormente e abbiamo visto che questo modello era replicabile, cioè attirare talenti e metterli insieme porta altri talenti magicamente, e allora abbiamo iniziato a farlo in maniera più strutturata e quindi abbiamo dedicato parte degli utili di Translated a investire in startup. 10% degli utili andavano in questi investimenti e oggi abbiamo 9 investimenti. Che cos'è Translated? Translated è un servizio di traduzione online professionale, quindi fatto da traduttori professionisti, che mette facilmente in contatto i clienti con i traduttori senza tutto il costo di intermediazione tipico delle vecchie agenzie di traduzione. Ma soprattutto la loro difficoltà è attirare talenti. Gianluca Granero, 38 anni. E poi con Marco abbiamo girato in California, abbiamo girato a New York e abbiamo visto che si poteva fare meglio e quindi abbiamo cercato di portarlo a un livello successivo. E così nelle palazzine anni 70 completamente ristrutturate ci sono palestra, piscina, giardino, spinning. Ma da dove arrivano quasi tutti i ragazzi di questo posto? E varia molto, gli ingegneri soprattutto dall'Università Romana, in particolare Roma 3, i project manager. Sì, alcuni professori ci fanno la segnalazione dei ragazzi laureandi più bravi in assoluto, e adesso si è ingenerato anche il contrario, loro vengono a cercare noi sperando che gli diamo uno stage, una tesi o un periodo di prova. Come Marco, 31 anni, che lavora in Entrack, uno dei migliori software per registrare il suono con il computer. Sono arrivato tramite l'università perché io collaboro, ho studiato e attualmente insegno e collaboro in un master di Tor Vergata che si occupa di tecnologie per il suono, un master in ingegneria del suono, e praticamente Entrack era tra i nostri partner e da diversi anni Flavio, che è il fondatore di Entrack, ha creato questa partnership con Tor Vergata, per cui tanti ragazzi vengono qua a fare la tesi finale e molti di questi rimangono. Insomma, abbiamo a che fare con un complesso di aziende che fattura 13 milioni di euro, che ha creato più di 100 posti di lavoro, ma soprattutto... ricchi! Però se lo misuri con la qualità della vita che facciamo, siamo ricchi, perché ci siamo costruiti intorno a noi una vita totalmente piacevole, prendendo il meglio di quello che ci offriva Roma, l'Italia, e il meglio di quello che ci offriva il mondo. Perché Pi Campus? Pi greco, ci piaceva perché è un bel simbolo matematico, un numero che ha delle proprietà interessanti, era legato al mondo della matematica, dell'informatica, e quindi ci piaceva essere indipendenti. E i numeri sono qualcosa che non hanno confine né razza. Una bella storia, una bella avventura. Prima di chiudere questo pezzo sulla scuola, una notizia positiva che ci scrive Angela da Monza e dice: spezzo una lancia a favore dell'istruzione pubblica. Mio figlio in seconda elementare studia 4 materie ordinarie in inglese con insegnante madrelingua. Beh, una bella notizia. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS pubblicità. Mix 24. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Per fortuna che c'è Buttafuoco. Sai cos'è successo? Che tu hai presente quando si esce per strada al mattino che è ancora buio e le persone che incontri sono le uniche ad avere un chiarore addosso, perché, come dice la canzone, ognuno ha tanta storia, tanta gente nella memoria. E stamattina, nel tratto di marciapiede che porta alla fermata della metropolitana, ho incontrato un vecchio amico che è già stato un grande soldato, un poeta del varietà, che era stato frastornato proprio in quel momento da un'apparizione, quella del suo grande amore, alla guida di un'automobile, intenta ad andarsene via, lei che dovrebbe essere già andata via. E lui lì, frastornato da questo che aveva visto, ha tentato perfino di inseguirla, ha capito che lei non è un ritornello che nessuno canta più, ma ancora è sempre, sempre, sempre. Nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Così certo e così bello anche tu diventerai. Insomma, dall'amore alla dura realtà delle bolle di Mario Secchi. Eccoci qua. Che sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia. Immaginando preparo il cuscino qualcuno. Non ve l'aspettavate? No, sorpresa, sorpresa. Cioè, stupito. Vabbè, dai, ogni vabbè, tanto. Vabbè, c'hai un cuore. Abbiamo anche delle innocenti evasioni. Va bene, allora. Pietrangelo, scusa, io ti chiamo in causa perché. Allora, e anche a te, Giovanni, perché insomma io ho bisogno della tua saggezza. E segnalo en passant naturalmente ai grandi difensori dei diritti civili che in queste ore hanno affollato un grande, enorme dibattito fondamentale, direi imprescindibile, di cui sentivamo veramente il bisogno, i nostri ascoltatori prima di tutto. Segnalo ai moralisti, agli opinionisti intelligenti a prescindere, che c'è una situazione un po', posso usare il termine, incasinata in Europa, vorrei dirvelo così. E la Francia oggi presenta il suo piano per provare a rimettere a posto il deficit. Naturalmente poi lo voteranno a gennaio, quindi è un, diciamo, un pur parler, per così dire. La Germania ha tagliato le sue proiezioni di crescita per l'anno prossimo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha tagliato le stime per la domanda di petrolio. E in questo quadro, e mi fermo, sono tutte cose messe in fila, in questo quadro, noi, devo dire, siamo un paese che praticamente sta riscivolando nella recessione quasi perenne. Beh, siamo distratti, c'è un grande dibattito in corso, è un'arma di distrazione di massa, mi sembra ormai. Ho visto i titoli dei giornali, i temi sono altri. Io, cosa volete che vi dica? Io vedo un disastro alle porte se continuano così le cose. Forse per colossali. Questo si parla d'altro. Poi uno si chiede come mai siamo ridotti così. Scusa Giovanni se me la prendo un po', però siccome prima dicevamo che è un periodo storico di quelli micidiali, sì, difficili, mai visti, cioè io mi chiedo se il dibattito del paese debba essere preso dalle cose che stiamo leggendo, da altro. Ci sono due modi. Sono imprenditori disperati che stanno chiudendo le loro attività, famiglie che non vanno avanti, e noi parliamo d'altro. Complimenti. Non ho molto da dire. Ritrova che controlla Orzo M M X X Z Z Z Iota. Non ho ricevuto. Avevo chiesto Orzo O R Z O Orzo. Ok, questo era un test di intelligenza che io non ho superato, molto probabilmente. Allora, niente, ti parlo invece di una cosa, di cose concrete. Mentre la chiacchiera impera alla grande nostro paese, io segnalo che Intel, che è il colosso, il più grande produttore mondiale di microchip, ha superato la quota record di 100 milioni di consegne. Bilancio in grande salute, questo è anche abbastanza sorprendente perché, come tutti sapete, le vendite di personal in realtà stanno declinando a favore del tablet. Dei tablet e degli smartphone, certo. Però la cosa interessante è che sono riusciti subito a cambiare il modo di produrre microchip con un'abilità incredibile, quindi a far fronte al declino delle vendite dei personal, e soprattutto si stanno buttando sulle nuove aree di business che sono le cosiddette internet delle cose, che in inglese è internet of things, no? Vale poco adesso, non guardarmi così buttafuoco. Vale poco, poi relativamente poco, parliamo di mezzo miliardo di dollari, e il PC vale ancora tantissimo, però, perché sarà pur declinante ma ricchissimo, perché sapete quanto vale quel mercato? Quanto per vale Intel? Ancora? Oltre 9 miliardi di dollari. Ma insomma, ecco, allora, queste come la sono televisione generalista, riprendendo, declina, ma è sempre lì. Riprendendo le cose dette dallo Bello prima, da Lara, che è una bellissima azienda italiana, eccetera, sì, queste sono le cose di cui bisogna parlare alle giovani generazioni e agli imprenditori un po' più in là con gli anni, che hanno bisogno di rinnovarsi. Infatti è molto interessante quello che ha detto Pontremoli, sì, proprio, sì, su come, bravissimo, quando l'offerta, quelli, è giusta. Giovanni, quelli sono bravissimi, fanno le IndyCar, dai. Salamino! È tornato! È tornato! Io sono veramente contento di avere in collegamento telefonico un nostro amico. Giustamente Mario diceva siamo in recessione, però insomma in Italia si parla d'altro e il protagonista di questo parlar d'altro è lui. Buongiorno Dudu. Buongiorno, buongiorno. Gran forma, eh? Ecco, sì, mi ha detto, faccio io la traduzione in virtù delle mie scuole alte, sta dicendo che non è d'accordo con Secchi, perché comunque quella discussione che è stata aperta con Vladimir Luxuria è molto importante. E il suo padroncino è fondamentale. Allora, Giovanni, hai una domanda da fare? Sì, io voglio chiedere a Iaccia dove è andato a finire. Ah. Grazie, grazie, grazie. Ha detto che Aiace è impegnato in un dibattito per costituire una minoranza all'interno della minoranza affinché tante minoranze possano determinare il pluralismo contro Renzi. Io ho una domanda. Posso? Ah, sì. Anche, però dice che Renzi è un caro amico del Cavaliere. Ah, vabbè. No, io, ma Dudu, ma così, giusto perché sì. Per stare nel dibattito di cui si parla. Ma non è che si vedono con il cane di Putin? Dudu e il cane di Putin si vedono, no? Ah, grazie. Dice che il cane di Putin è un tipo poco raccomandabile. Ah. È omofobo. È omofobo. Canofobo. È omofobo. E lui dice che ieri con... Cos'è che mi diceva? Ah sì sì sì. Ah sì, dice che appunto è un retroscena, ci rivela. Grazie, grazie Dudu. Allora ci rivela questo retroscena. In realtà cade a fagiolo evocare fagiolo. Evocare Putin, perché Putin aveva detto a suo tempo, quando il Cavaliere era nei guai, che se solo si fosse trattata di una storia, di una vicenda di traffici con ragazzi e non con ragazze, in virtù della salvaguardia omosessuale, avrebbe. Berlusconi si sarebbe salvato. È così, no, Dudu? Sì, è così. Berfe, e mi dice pure che con Vladimir Luxuria hanno imparato una canzone e ce la vuole fare sentire. Davvero. Grazie, grazie. Hanno imparato questa canzone perché dice che per Luxuria è stata una svolta scapparsene da Foggia e arrivare niente meno che da Berlusconi, che gli ha cantato i sonetti di Dante, poi le poesie di Madre Teresa di Calcutta, e insieme tutti quanti, tutti, dopo aver parlato malissimo di Alfano, dopo aver detto, e lo dice oggi Luxuria in un'intervista sul Fatto Quotidiano, col cavolo che Berlusconi fa rientrare Alfano, hanno cantato tutti quanti. C'era pure la Gelmini, questa canzone, guarda, ascoltatela, è bellissima. E andiamo con l'amore. Invece che la rivoluzione liberale si buttarono sulla rivoluzione sessuale. Il dibattito è questo, è questo, capito? È Sara che dibattito ci racconta. Eccola, fuma il comignolo, vediamolo in diretta, fumata nera, fumo scuro, nero anche questa mattina. Tutto sto fumo nero, è la 18ª volta che i nostri 945 parlamentari provano a votare i due giudici della Corte Costituzionale. 18 fumate nere. Ragazzi... Ma non è che queste fumate nere gli piacciono? Nel senso, dipende. Ma non è che sono buone queste fumate nere? Cioè, bisogna indagare, ma che cosa saranno? Cosa fumano? Cosa fumano? Perché qui ci sono troppe coincidenze, a noi non ci fregano. Sapete che la Quinta Leopolda è dedicata a Bob Marley? Tutto torna. Secondo me, per decidere se legalizzare o meno la cannabis, stanno coscienziosamente provando gli effetti in Parlamento. Insomma, secondo me i nostri 945 parlamentari in questi giorni cantano. Grande. Oggi la musica è bella. Bellissima pubblicità. Mix 24. canzoniere. Vedo bene che Poulet mi tiene il muso. Parla mica più di me nelle sue rubriche. Una volta io ero il grande questo, l'incomparabile quello. Adesso appena una piccola parola occasionale più che sprezzante. So da dove viene questo che ci si è beccati duro. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Francesco ci scrive: sono un piccolo artigiano, vi garantisco che è dura andare avanti, troppe cose da pagare. Minoli, leggilo, lo sto leggendo. Se vuoi, Francesco, chiamaci. Intanto no, Mario, una bolla. Allora, anche questa bellissima musica stamattina, scelte felici di tutto il team, Baghdad Café. Parliamo di Baghdad, Giovanni. Sì. Faccio una cosa rapidissima. Tra i tanti pericoli c'è quello di ISIS. Come sanno bene i nostri ascoltatori, siamo stati tra i primi e tra i più puntuali nel seguirlo già nella scorsa edizione. E ormai la domanda è se prenderanno o no Baghdad. Certo. Perché questo è diventato il tema, ahimè. E la cosa incredibile è che Baghdad la stanno sfasciando a forza di attentati e autobombe. Ce n'è uno di ieri, 24 morti, destinato a salire. Qua non so cosa succede, perché presa Baghdad poi si va a sud verso Bassora, quindi ISIS ha lo sbocco al mare, ha preso metà della Siria e cosa facciamo? Il califfato, hai capito? E arriva. Cioè, io sono stupito, è come se fossimo entrati in una fase di follia. Sì, assolutamente. Sì. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Salamino. Salamini di Marina, salamini per respirare, salamini per incontrare il mare pulito. Allora, è successo che gli attivisti di Greenpeace hanno fatto ieri a Gela, in Sicilia, un arrembaggio. A bordo di un'imbarcazione hanno raggiunto la piattaforma Prezioso, una piattaforma dell'ENI, e lì, per protestare contro la ripresa delle trivellazioni petrolifere nel canale Sicilia, hanno legato alla piattaforma uno striscione con il volto bellissimo, meraviglioso, sublime, incantevole, il volto dei volti per eccellenza, cioè quello del caro leader Matteo Renzi, e una scritta: più trivelle per tutti. Più trivelle per tutti, e a Matteo Renzi io vorrei dedicare questa canzone. Ascoltatela. Ti voglio inquinare, inquinare, mostrandoti lo sporco del mare, del mare. I vetri nella sabbia, le cicche, così tu sotto i piedi brucia chiaro. Non sono mai contenti. Mai contenti. X ci scrive: certo, ragazzi, che Sara ha una voce così sexy. Beati voi che l'avete lì, ciao, è vero, siamo fortunati. Sapessi quando la vedi mattina presto. Vedi, stavolta, stavolta non è stato un uomo a scrivere. No, lo vedi, no. Vedi i tempi nuovi? Vedi la lezione di Vladimir, sì. Luxuria? Sì, sì, sì. Bene, più ammiratori, gli ammiratori raddoppiano così. Sei contenta? No? Ma c'è qualche vincitore di queste cose, non ne capisco. No, li fa troppo difficili i canzonieri. Ma che difficili, è un classico, è la Pleiade. Allora, l'ho preso dalla Pleiade. Volete un aiutino? Dai, è un maledetto, è un dannato, è della Pleiade. Poi cosa possiamo dire? Beh, molto dannato. È un molto dannato, la pensa bene, sì, molto bene. La pensa benissimo. La pensa bene come buttafuoco. Ce l'abbiamo o no? Non ce l'abbiamo. E allora aspettiamo, intanto vi diciamo che oggi vi racconteremo la storia e la vita di Joseph Mengele, uno medico spietato, medico nazista, artefice di sperimentazione su bambini, sui gemelli, nei campi di concentramento. Questa è la testimonianza di un deportato da Auschwitz. Siamo dovuti scendere tutti e disporci in lunghe file. Gli uomini da una parte, dall'altra donne e bambini. Davanti a noi c'era questo Mengele, con una posa alla Napoleone che ci visitava. I più forti, i giovani, venivano messi da una parte come potenziale forza lavoro. Se finivi dall'altra parte eri spacciato. Noi bambini non eravamo potenziali lavoratori, dovevamo andare sul lato di quelli che sarebbero stati uccisi. Ecco, dopo il giornale radio, Marina Milone, con Marina Milone vi racconteremo la storia di Josef Mengele. Per finire, una canzone. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. Dire, ma